10 se ascolti l'isola della Sardegna che chiama. Tu mi senti? Tu mi senti? Benissimo. Ma come si sente la voce? Bene? Sì, benissimo, un po' d'eco. Oh, eccolo Leo Mari, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Adesso no, poco fa è successo un po' d'eco. Vabbè, scusate, non ero io. Eri tu. No, non ne ho ecco io. È identico a quello, normale, non c'ha ecco. Vabbè, dai, era giusto per sapere se uscì, va bene, dai, che mi controllo quel tablet. Ci sentiamo dopo, ciao. Ok. Io spegni, ciao. Già, Gianni, proprio ru. Eugenio, mi senti? Ehi, ma mi ascolti? Sto provando un microfono normale. Ok, dai. Ti ascolto un po' basso, Mi sa che l'altro può fare a Gianni. Gianni, tu sei? Oh, allora non era lui. Ehi, come? Oh, non ti ascolto, basso ti sento. Adesso un po' meglio, dai. Allora mi dici che va bene il vostro microfono? Ho capito. Ehi, aggiungiamo gli a male. Ce l'ho ieri, oggi niente, a riposo. Domani a riposo, poi faccio venerdì, sabato e domenica. E allora, la Marina di Sorso, lì alla Platamona. Allora, andi puoi andare. Come? Non t'ho copiato, No, rientro, cosa? Rientro, lì, a Ruminchivi, no. Gianni, ci sei? Attento Gianni. Ehi, ci sono, sono sempre all'ascolto, aspettando di qui. Ehi, dai, che stavo facendo una chiamata. Ascolta a me, come mi ascolti con questo microfono? Già ti ascolto bene, è normale, ma ti ascolto bene. Ok, dai, ho riparato quel microfono là, ho preso una busta, ci avevo dei pezzi, controllando, ho trovato questa capsula e gliel'ho adattata, dai, quel microfono che si era rotto. Quello del presidente, dai, comunque va bene, dai, non è sia come boh, sei cupo, non lo so, boh. Già, può andare, dai. Io invece ho aggiustato, ho cambiato tutto nella 48, quello modificato, perché mi è caduto il microfono e si sono spaccati quei pirulini dove abitano le viti e si è aperto tutto. Quindi ho messo l'interno di quel microfono, l'ho messo dentro una faglietta, dentro il coperchio della faglietta. Ho capito, dai. Vabbè, allora meglio che... Vabbè, funziona, dai, lo lascio così. Diciamo che la capsula è un po' la ballerina, gli ho messo un pezzo di nastro, di quello, non so se lo conosci, quello che si mette nei tubi, che è argentato. Sì, che lo conosco, ce l'ho anche. E dove vi mettete c'è che cosa? Un po' di cottone, attorno la fate il gioco, ma più. Dai, adesso attacco questo qua, attaccato. Non se ne è sceso un bebo. Questo baracchino non so cosa... Insomma, se ne va di più il lago. Vabbè, non me la faccio, non mi dice anch'io, ma tanto mi usa il bitto, per carità. Ho messo un 507 della Lafayette, se lo provo. Vedete, 5 minuti che ha fatto così, mi ci comincia, anzi, mi registra. Eia. Stai provando già? Ma stai uscendo già? Stavo modulando, adesso esco, cambio... Aspetta che attacco pure io quello modificato, là, che sono da molto, non lo uso. Aspetta, dimmi come esce, cambio basso, ora, va bene? Esce benissimo già, va benissimo. Yeah, ma cambia da quello là, perché a volte il coperchio cambia molto. Ma va bene, c'è quella che è là, questa cosa sembra più spinta. Ovvero, ho tolto la gomma a piuma da davanti, cambio, ora... Va benissimo. E se c'è il telefono a portata di mano mi registri così mi ascolto. Mi fai mettere attaccare, quello modificato ti registra. Aspetta, fa un passaggio. Registrato il break, E attenzione Luca, se ascolti il doppio run che parla, cambi. Sbaglia, riprova. Attenzione, se ascolti il doppio rum che modula, cambio. Prova andata, avanti break. Grazie, salutoni a tutti. Sono entrato per un controllo, grazie Alfa 21 comunque. Kappa, ciao Alfa, buonasera anche a te, salutoni, avanti Gianni. Bene, prova a parlare un po' più forte perché è un po' bassa la radio. Ok, vedi un po' adesso come sto arrivando. Adesso già va meglio, dai. Tu come mi ascolti a me con questo apparecchietto, cambia. Molto bene, sta arrivando forte di Santiago e la radio è amplificata, si sente. Va bene. Questo qui è un microfono che ieri ho lavorato, perché l'altro che c'avevo mi è caduto il terra e si è rotto. E quindi ho messo l'interno di quello che avevo prima dentro altri due coperti di un altro microfono che ci avevo smontato. Sta uscendo bene, è una bella radio amplificata, dai, non è male. Va bene, dai. Adesso mi ascolto perché Luca mi ha registrato. Buonasera anche a te Sergio, che cosa stai usando? Sto usando un vecchio apparato valvolare, questo NASA 23. Mi arrivi? Sono nuovi arrivi, sì. Non ho capito. Se sono nuovi arrivi. No, è una roba che avevo da parte, così non lo usavo da un bel po' e adesso ogni tanto viene a farli girare, se no diventano solo soprammobili. Bisogna usarli. Infatti è che a turno insomma bisogna farli girare, sembra. Se no diventa, boh, non lo so, un museo, cosa vogliamo fare? Non lo so. L'unica è usarli, vedere un pochettino e tenerli sempre in funzione, altrimenti poi se no mettono a polvere. Oh Gianni lo furro, guarda. Mi stai ascoltando, sì. Gianni? Sì. Non ti sentivo, non ti sentivo, Gabba. Perché stavo ascoltando la registrazione. Positivo, Caparroia, non ci sono problemi, Gabba. E beh, come sta andando? Funziona bene? Però mi piace il suo microfono, aspetta. Funziona bene Luca, già va bene, dai, K di positivo. Avanti Sergio. Ok, saluto anche a Luca. E niente, vabbè, abbiamo schiacciato un'altra antenna, un pochettino più in alto, in posizione diversa, giusto per non annoiarci. E quindi stavamo provando un po' il tutto. Ok, riprendete, grazie lo stesso per il controllo e alla prossima, dai. E a cosa hai messo? Che antenna hai messo? Sì. Visto che funzionava bene, sempre Blizzard. Sì, va bene. E non vi prende il segnale, ma non fa testo il mio segnale perché siamo vicini, dai. Non so, infatti era giusto così per sapere se almeno di radio stava uscendo bene. Poi il segnale, lo so, arrivi anche tu forte, quindi non fa testo e niente, dai. Vediamo un po' stasera Riccardo con gli altri amici, cosa dico. Va bene, dai. Comunque per il momento la radio è un po' bassina, ma è chiara, dai. Ci vorrebbe un amplificato in quella radio. Lo so, vabbè, dobbiamo piazzarli ancora, che ci vuole un po' di tempo. Grazie, già riprendi e saluti a Luca. Ciao Sergio, dai, buona continuazione. Avanti Luca. Ehi, ciao Sergio. A più tardi. Aspetta che abbasso qua un po'. Ho cambiato microfono già. Che meglio, questo qua? E non mi ricordo quale c'era questo. 1, 2, 3, prova. Non cambia ruta, è l'apparecchio che fa, capito? No, la ne lascio uno, non mi interesserà, va bene. Andave. Allora, ieri, tu ci crederai, la Marina, ha acceso il baracchino un attimino, e c'era questo tipo con quest'antenna di bacio 9:20 che stava arrivando, allucinando, l'ho chiamato però non mi ha risposto, forse non mi sentiva mai. Ma dove? Dove era fuori? E allora? Lo so. Oggi sono arrivato a Santiago Nove, fuori, nella zona di Marsala l'Uovo. Ah, Marsala è Uovo. Allora, sto scoprendo piano piano che tutti i nomi che sento sono città, prima non lo sapevo, che Massala era una città, che non lo ricordavo che fosse una città, dai. Poi ho scoperto che dove fare la Massala all'uomo e poi più a Massala. Se non si sa mia chi la mettere in chimica. E che ne so io, non lo sapevo, Massala è da poco che la conosco come città, Massala non me la ricordavo. Conoscerla. Lui ha attaccolato perché qua mi stanno facendo battimento zero, non sento più nulla, quindi niente, passa 45, vai 45, Luca, via. C'è qualcuno sul 10, cambio? Con la attenzione, canale 10, cambi. Ola. Sani Mancia. Gianni. Attenzione, Giulio Rumus, ascolti l'Italia qua, l'Italia che chiama, papà. Lui, ti ho chiamato poco fa, non mi hai risposto, per vedere se andava bene il microfono, ma già va bene, dai. Ho provato e mi sentivo. Ma sai cosa era? Era una pallina di soldatura all'interno, come prendevo il microfono in mano, si muoveva, mi dava fastidio. Se non dico dico la pallina, già. Tu che stavo chiedendo quel tablet, una cosa delicata, cazzo si faccia e la messo un conto. Mamma mia, io so che se mi manca, se va pure. È caduta secondo me saldando quei fili. A volte non attacca bene, capito, il cazzo. Ma è una pallina piccola piccola. Si era inserita, non lo stavo trovando nemmeno, si era inserita dove c'è l'incasso per mettere circolava lì quando lo prendevo in mano, scendeva, saliva, capito? Positivo Caparroce, non ci sono problemi, capa! No, ma le vendono le punte del saldatore, perché la mia si è consumata un bel. E quale com'è? Quelli che si può smontare? Com'è? Mandami la foto. Ma in cazzo sono. Ma in cazzo. Praticamente c'è la punta e tu la incazzi così senza avvitare, senza. Io so quella da avvitare, cioè praticamente c'è un coso, no? Una ghiera, svitti quella, tiri e poi c'è la cosa, la punta. No, la mia è a incastro, si incastra sulla punta che c'è sotto. E ho provato a saldare con la punta che c'è sotto e non fa. Come ce l'ho io, costa 10 euro. Costa 10, una cazzata. E vanno da Dio, benissimo, la punta è sottile, solo ti mando la foto. È quello che c'ha il tassino, doppia potenza, là. Il tassino rosso sopra. Anche lui ce l'ha il tassino, per aumentare le gradazioni. Le vengono le punte. Il mio ce l'ho già un po' di anni, là. Sarebbe da cambiare, perché tutto è consumare. Io ho anche bruciato il filo, gli ho dovuto mettere un altro attorno perché mi stava accadendo, ho cercato di trattenere, gli ho bruciato il filo. Aspetta, ti mando la foto se è questa, aspetta. Ho visto che ci sono anche le stazioni saldate da... a cosa? Ma che è qua? Vabbè, la stazione saldante, vabbè, si è bruciato il saldatore. Funziona solo l'aria calda e basta, gappa. È simile ma è un po' diverso, va. Capati quello, guarda, non sbagli. Non sbagli, funziona benissimo, non c'è bisogno comunque di toccare il tastino, capito? Perché salda, ti salda così, guarda, perfetto. È ottimo. Io non ho preso del ricambio, c'è un nuovo estratto là. E la mamma mi si è bruciato il sugaggio già nuovo. Poi mi ho preso anche la sfida a stagno. Aspetta, guarda la foto. Dove l'hai preso? Su eBay. 12 euro l'ho pagato già. Su eBay? Su eBay, sì. ma non c'ho carta, eh. Il contrassegno non mandava più. Poi c'è anche questa, aspetta. Settore 10, c'è qualcuno? Avanti, vabbè. Ciao Sergio, vabbè. Allora, cosa ti dice? Ah, sì, c'è, adesso sono rientrato. C'è un po' di macello di propagazione, un po' di consumo di segnale, vedo tutti Santiago 9, insomma. Ho visto, insomma, sta tirando la propagazione e tutti si fiondano, e poi c'è molto QRM anche. C'è un sacco di confusione, non si capisce. Che radio stai usando? Sto usando l'SBS. E col microfono? Il Turner. Ah, ho capito. Quello che usa Riccardino o un altro ancora? Questo? No, è un altro questo. Perché in realtà c'è una modulazione un pochettino intubata, non so se c'è presente quell'effetto quando parli dentro un tubo, è chiara, pulita, però c'ha una specie, un effetto tubo. Guarda adesso un po'. Ma che sta a me, quello con i tuni? No, non è con i tuni, l'ho spostato, non lo so, vedi un po'. Ma puoi sollevare il livello? Sì, posso abbassare, ma lo abbasso un po', così va bene? No, prova a alzare, sto dicendo. Guarda un po' così. Da un passaggio più lungo. Ecco, adesso ho sollevato un pochettino, vediamo un po'. C'è un innesco leggero, no? Abbassa un pochettino. Così a metà? Sì, così va molto meglio. E aspetta che adesso vedo un po', mi dai un segnale. Adesso stavo provando la nuova antenna, aspetta, insomma, stazionato proprio, non sale manco a uno, perfetto. Ma è il tragitto breve, questa è quella dell'albero di Riccardo. Sì, esatto. Devo passare stasera, poi ho avuto un imprevisto, già ci passo domani così mi fai vedere un po' cosa avete combinato. Ci sei domani sera dopo ufficio? Sì, siamo qua. Aspetta, e il medisegnale cosa sta arrivando? Guadagnato un po'? Sei quasi 9.20, poco meno di 9.20. Ho capito. No, ma ieri ho notato differenze con Riccardo rispetto all'altro coso. Non dico 5 punti, però diciamo in una scala empirica 3 punti hai guadagnato. Perché a volte la posizione sono l'ultima, vuol dire molto. Adesso ci siamo, diciamo, rispetto al garage ci siamo spostati un pochettino più in alto e siamo più, forse leggermente più aperti. Boh, quasi verso di me hai guadagnato qualcosina. Volevo sentire il 43, l'ala 43, come andava di lì? Ciao Luca. L'ala 43 quale sarebbe? Il capo. Sì, adesso qua lo colleghiamo e vediamo un pochettino. C'è anche Luca, avanti Luca. Luca. C'è un sacco di QRM. Guarda adesso Robè come ti arrivo. Stai fischiando di brutto. Abbasso così. Il segnale è arrivato a 9 più 25, però sei tutto a fischi, a inneschi. Guarda che sia tutto efficiente, le connessioni, gli ingressi, eccetera. Ok, adesso vediamo, controlliamo, poi proviamo anche l'altro, vediamo un pochettino se riusciamo anche a fare altro. Stai ancora fischiando però. Incredibile, ma non lo so, l'alimentatore, sono attaccato. La radio adesso era un po' più chiara, però c'avevi questo innesco sotto, come che ci sia un rientro di qualcosa, non so se sei vicino col microfono, troppo vicino alla radio, troppo vicino all'alimentatore, boh. Aspetta un attimo, lo trovo. Luca, ho salutato Luca. Allora c'è questa propagazione, mamma mia, mi verrebbe da spegnere tutto e dire io a casa. Com'è adesso, Robè? Prova a parlare. Ecco un po', vedi un po' se adesso arriva meglio. Sì, la radio, no vabbè, il segnale è più o meno uguale, la radio però è più pulita. Capito. Va bene, adesso facciamo l'altro e proviamo anche l'altro, vediamo un po' come è. Questo che cos'è? E questo è sempre l'SBS. Ma hai cambiato microfono? No, è attivo, mi sono allontanato dall'alimentatore che c'è vicino. Adesso va bene, anche la radio è più chiara, più pulita. Provo a aumentare ancora, vedo un pochettino, magari se migliora, se guarda. Ah, sai che ti do il livello un attimino? Aspettate, non ti ho sentito il livello? No, stavo guardando il livello, prova a parlare se puoi alzare ancora. Sì, adesso così così al massimo, vedi un po' cosa mi dici. Abbassa un pochettino. Ecco, allora, adesso. Una domanda, ma sei tutto a manetta, sia il microfono del microfono che quello della radio? No, quello del microfono è qua, quello della radio è... Al massimo quello della radio? Sì. E prova a fare l'inverso, sollevare il mic del microfono e abbassare quello della radio un pochettino. Vedi un po' adesso cosa dici? Hai messo al massimo quello del microfono? No, non sta il microfono. Solleva il microfono e abbassa quello della radio un pochettino. Prova a parlare. No, tutto distorto, sì. Non capisco, cosa stai toccando? No, il microfono. Allora, toccando il microfono, perché qua è preso la scena. Lascia così, allora non toccare niente. Risolleva un pochettino quello della radio. Guarda adesso come sta arrivando. Al massimo sei la radio. Sì. Oh, sì, insomma, ti sei abbassato. Il microfono da quanto è? Il microfono leggermente oltre la metà. Ma sei più lontano, ti sei spostato di lontananza. Sì, adesso sarò un pochettino più distante. Ah, la radio è buona, teoricamente potresti alzare un pochettino, non so se... Però quando si fanno queste prove devi stare sempre seduti alla stessa distanza, perché sennò non ti do delle regolazioni, diciamo, fedeli, precise. Infatti adesso mi sono posizionato bene, in una posizione naturale, tranquillo, sono seduto e davanti alla parete. Solleva ancora il micchigan del microfono. Guarda sta rotto come mi dicevi. Prova a parlare, sembra meglio. Sembra migliorato un pochettino. Allora, poi magari per la futura riesci anche rimbando di questo rifugio sull'albero. Eia, ma c'è anche Riccardino lì? Sì, esatto. Prova a parlare a lui che memorizzo meglio la voce sua. Roberto c'ha tutta la rotta, vediamo come funziona adesso con le mie corde vocali. C'è un macello di sottofondo di propaganda. Riprova Riccardino. Ok, va bene, comunque saluto a tutti e dimmi come funziona con il mio livello microfonico. Ma va benissimo, la radio è chiara e pulita, va più che bene. Va, adesso mi attacco i miei. Ehi, sono qua. C'era Luca, chiamato, ha salutato, però non lo sento più. Luca, ci sei ancora? Chi c'è su questo canale? Cos'è Riccardo? Questo è un altro apparato, adesso sei 9:10, prima eri 9:20 quasi, sei sceso di segnale. Così come va? Come va? Male? Si sente un rumore di ferraglia, ma c'è attaccato, non parlare, manda solo portato. Il segnale è 9:15, però c'è un rumore da... Scusate, l'alimentatore, perché ho messo quello con la ventola, e niente, mi posso spostare, perché sta facendo 34 rumori, babbo, e così anche quelli fanno da rumore. Sembra in mezzo a un'officina, tutto pieno di rumori sotto. Attento Roberto, come sto uscendo adesso, forse meglio. Però Riccardo, tieniti sempre alla stessa distanza, perché adesso sembra che stai parlando attaccato al microfono con la bocca. Ma sono due palmi di distanza sono dal microfono, forse così mi va, può andare meglio. Adesso così va meglio forse. Ma meglio la voce, ma c'è un rumore sottofondo impressionante. Mamma mia, quanto stai scendo male. Ciao Claudio. Ciao Roberto. Ciao Claudio, non so, perché l'alimentatore, scusate, anche Babbo sta facendo rumori. Ma l'alimentatore, sembra che c'hai che sei sotto un elicottero. Sembra che sia in officina, quando stai telefonando cioè, si mettono a usare molette, trappane. Cosa hai detto Riccardo? Attacco un altro alimentatore. Non mi piace la radio, è tutta distorta. Boh, sembri diverso dal solito, Riccardo. Sì, non è bella. Che è, avanti col bip. Stavi richiamando Robert, dai, mi sono spostato che sto preparando la cena. Infatti ti ho sentito, ho salutato Luca, poi l'ho richiamato un paio di volte. Mi hai sentito, ciao Luca, c'è anche Claudio, è entrato adesso, facciamo entrare a Claudio che saluta, dai Luca, Claudio. L'ho salutato anche poco fa il telefono a Luca, quindi non lo saluto più, ciao Luca. Becca. Sì, dai, stavo facendo girare un po' quello modificato anche. Però aspetto. Va bene, dai. Ciao anche a Riccardino, lo sento basso, lo vedo basso di segnale, come mai? Ieri addirittura era pure più forte perché hanno messo l'antenna da un'altra parte, ha guadagnato qualche metro, per me ha guadagnato non dico 5 punti ma quasi, poco meno di 5 punti, adesso lo sento male di radio, un sacco di rumori. Ma alla fine il discorso è che se tu le cose le lasci come stanno, le così, se stai muovendo ti muovi, poi è un casino roba. Le cose bisogna lasciare così come stanno, se stai sempre lì a... E prima anche io lo così, mi anni addietro, però poi ho imparato a lasciare come stanno. Alzo proprio il microfono, mi dite come si sente. Avete ascoltato benissimo, la radio forte e chiara. E come dico io, una volta che ha trovato l'abbinamento di quella radio, non devi toccare niente. Io sono 80 anni di radio, questa radio. Sempre questa qui e boomi. Ogni tanto alterno con la Dunisi, ma ho fatto le regolazioni più o meno simili, proprio per non dare differenza tra uno all'altro. E boom. Comunque guarda un po' Robe, ho messo una capsula in quel microfono che non funzionava, guarda. Che è quello del... Com'è? Va bene? Benissimo, bella, se non ha sentito la voce sei proprio al limite del rosso, va benissimo, se magari ti avvicini tende a saturare, però ti ascolto perfettamente. Vabbè, mi interessa se è chiara, ecco, questo qua, mi interessa la chiarezza del microfono, se è nasina. No, io ti ascolto bene, è bella radio, niente da dire. Che microfono è questo? Quello del presidente, quello che mi ha venduto il tipo col 3009, da. Là, e tu? Va bene, radio perfetta 5, non è amplificata ma è abbastanza chiara. Ah, andava, ecco, vado a controllare tutto la malata, me la mangia. Sì, a dopo magari Luca. Attenzione, canali 10, come mi ascolta penso che ho sfruttato l'alimentatore, adesso va meglio la radio. Allora, la radio ti ascolto bene, Riccardi, però c'è tutti questi rumori di officina, sembra che sei in un'officina meccanica. Guarda, non so cosa dirti, cosa che ci può fare, quando volere il microfono, boh, non lo so che cosa posso fare, c'è sempre questo rumore. Tu non parlare, schiaccia solo portante. A parte c'è anche, ti porti adesso un po' di propagazione, però si sente buon... Ma dà molto fastidio. Adesso stavi saturando pure. C'è un macello di rumore di sottofondo, tu, più c'è questi qua che sono altissimi di segnale, un po' ti danno fastidio. Si prova di nuovo. Posso provare ad alzare il devi abbassare Mickey Gay, sì. Sì, abbassa Mickey Gay, ma c'è questo qua ti sta quasi sovramodulando, Riccardo. Questi sono FM, arriva una bomba qua, 9:15 sono. È sul più del 3 qua, del 30, figurati. Tu stai abbassando, Riccardo. No. Riccardo, tu stai abbassando la potenza, non il Mickey Game. No, non sento più, non sono muto, ho detto Francesco. Ricca, passa di due canali, vai sul 12, che qua non si capisce niente. Vai sul 12, ti stanno sovramodulando, sono più forti di te, Ricca. Minchia. Si è abbassato, la radio è tutta sporca rispetto a come di ieri che ti ascoltavo perfettamente, il segnale fortissimo, oggi buh, cosa avete toccato? Ho detto che non mi attizza, non so cosa dirti. Comunque lasciala così, abbassa appena appena il Mickey Game, ma appena appena però. Ok, va bene, ma adesso con il Mickey Game, visto che va a stare ancora più così. Lasciala stare così che adesso va bene, vai Robert. Però Riccardi, sei tutto diverso da ieri, ti ricordi quando ti ho detto, anzi avanti ieri, che sta uscendo perfettamente, tutto regolato, anche il segnale, era tutto perfetto, adesso sei basso anche di segnale, non ho capito come mai ti sei modificato così. Aspetta un attimo Roberto, lo dico io cosa posso fare, rispondi a me solo, quando schiacci la portante la lancetta dello smitter dove si ferma? Perfetto, falla fermare sul 5, ok, e non toccare dal 5, mi sembra che ne avevamo già parlato, metti la portante su 5, non sul 3. Lo metto sul 5. Oh, lo vedi il segnale? Lasciala sul 5. Il riferimento di quella radio è Santiago 5, Riccardi, non Santiago 3. Santiago 5, ok? Adesso il tuo segnale, la radio va bene, vai Robert. Infatti, ma poi da questa postazione dovrebbe arrivare anche più forte rispetto all'altra, qualcosina guadagnato. E il Mickey Gain a quanto ce l'hai? Tra l'1 e il 2 ce l'hai, Riccardi? No, adesso il Mickey Gain è a 1. A 1? E a che distanza sei dal microfono? Bene, Robè, lasciaglielo stare a 1, perché sennò si sentono tutti i rumori. Più o meno una cosa del genere, un palmo dal microfono sto parlando. Però Riccardi, quello che io ti ho sempre detto, quando tu fai le regolazioni, prima di tutto non toccare niente, cerca di rispettare le distanze. Se abbiamo fatto le regolazioni e dire a un metro o a 50 centimetri, rimani così, non è che poi l'indomani ti metti a mezzo metro o a un palmo, cambia completamente la radio. Tu trovati la posizione seduto, quando sei a 30 centimetri, a 40, quello che dici, questa è la mia posizione, e si fanno le regolazioni, non è che poi domani ti avvicini e te ne stai con la bocca attaccata, l'indomani ancora sei a un metro dal microfono, cambia completamente le regolazioni e anche la qualità della modulazione, perché quei microfoni devi stare alla giusta distanza, se ti allontani troppo ti rimbombano e devi sollevare il microfono per farti, se è troppo vicino si sente la voce troppo schiacciata, rimani sempre nella stessa posizione, rifai un passaggio di nuovo. No, ok, no, adesso mi sono messo nella posizione ideale con cui sto sempre a un palmo dal microfono, di solito non mi duro, vabbè, per vedere, e adesso sono proprio, non sto controllando, un palmo giusto al microfono, insomma, e la mia posizione è normale. Io invece parlo e penso anche Claudio molto ma molto più lontano, più di quasi un braccio intero, diciamo un avambraccio e un pezzo di braccio di coso, dell'altra parte del braccio. E siamo a 50 centimetri dal microfono, non stare troppo vicino. Aspetta che provo, adesso sono a un braccio dal microfono, sto uscendo male? No, stai uscendo male, sei più comprensibile la radio, però se tu sei troppo attaccato al microfono, poi non hai fatto le tocchi il carrier, tocchi il Mickey Gain, tocchi stai sempre toccando, alla fine è solo una porcheria. Tu cerca di trovarti la posizione seduto, rilassato, quella più comoda, e poi a quel punto ti fai fare le regolazioni, ti dicono solleva, diminuisci, eccetera. Però non puoi stare ogni giorno spostando, facendo. Impazzisci anche tu, me. Io lo so che impazzisco, dimmi così che a vedere, mi sa che mi tengo così se tre volte, se va bene. Così la radio è comprensibile. Ben benissimo, adesso ti ascolto bene. Claro, come lo sei? Ma io glielo ho già detto, cioè quello non è un microfono che devi appoggiarci la bocca a un palmo. Io ho già, con l'esperienza che ho, 30-40 centimetri devi parlare, rilassato, ti sentono lo stesso, Ricca, non c'è bisogno di avvicinarti, capito? Stai usando un microfono serio, non stai usando una cagata, capito? Quindi, come stai modulando adesso va bene, poi il riferimento, ricordati, il riferimento dei watt lo devi tenere su Santiago 5, sul 5, non sul 3, ok? Il Mickey Gain lascialo così e il segnale lascialo così, non tocchese. Lo so che non tocchese, come mi sono spostato di postazione, che ma non ho potuto segnare, così non ho più problemi a chiederlo, che come detto Roberto sono impazzisco. Proviamo a vedere se adesso, insomma, stai tranquillo e non tocchese. Ah sì, sul più del 3, quindi sei quasi 9,25. Per me va bene così, lascia così, ma chi viene, potenza, tutto così lascia. Avanti Roberto. Sì, va benissimo, dai, non tocchiamo niente. Dai, vediamo se c'è qualcuno sul 12 oltre a noi. Chi c'era? Luca, non so se ci ha seguito. Ma andiamo al 10 però, dai. Andiamo al canale 10, tanto io fra un po' chiudo, dai. Ritorniamo al 10, dai, ok. 27.075, Riccardo. Sì, sì, lo so, ma almeno quello me lo ricordo. Comunque, stavo ascoltando, stavo regolando. Ti ha spaccato, ti ha battuto, mi stava arrivando 9,60 questa postazione. Poi adesso c'era una portante 9,10 qua, non so chi sia. Boh. Vabbè, aspetta che vado, torno sul 10. Ok. Chi è che chiama? Mio padre. 10. Sempre solito tran tran. Cos'è, Riccardo? C'era Bobbo che stava chiamando, non so se è ancora sul 12 o sul 10. Telefono per me, un attimo. Cacchi di tarriccia, cazzo di telefono, diciamo, si può avere una sirena del genere, cazzo blu. Io ci avevo profondo rosso quando telefonavo una persona. Sì, ma cazzo, ma guarda che lui si sente in officina, io l'altro giorno stavo parlando col fratello. fratello, cazzo, ho detto, ma c'era qui, sono arrivati, mi giro e era Edo rispondendo al telefono. Oh yeah. Che ne è uno che faceva picu, picu, picu, picu, picu, picu, picu, picu. Cazzo, girava di tutti. Vabbè, ma una cosa curiosa, cazzo, ma anche voi poni la sirena del carabinieri, no? Mamma mia. E raga, le 8:15 sono, io c'ho fammine, dai, vi saluto. Già, guarda, c'è anche Riccardo. Roberto, saluto a tutti i circolari. Chiudo, vado a mangiare, ciao, che poi me ne voglio uscire un po' al fresco. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, e anch'io me ne esco dopo, quando c'è più fresco col cazzo. E a mangiare non la giugano, la mangiate troppo a tanto. No, io mangio una cosettina leggera, c'è le belle coscette di pollo al forno, le patate al forno, un'insalatina e poi me ne esco. Mi hanno già chiamato, abbiamo appuntamento a Piazza Lessini e ci insediamo a Pratamona. Ciao, ciao! Ciao, cazzo, sentiamo, sono rientrato comunque. Ciao Gianni, c'era Riccardino, poi chi c'è qua? Ciao Claudio, buona carica quando la fai e ci sentiamo. Comunque c'era Babbo che stava chiamando, come ho detto, sul 12, non so se è ancora sul 12 o è sul 10. Guarda dove sta casa, la macchina. No, stava chiamando sul 10, non so se dalla macchina o dalla cellula, boh. Ah, va bene che era lui a 9:60, Riccardi, tuo padre. Avanti Sergio. Io ho ripreso adesso, dai, saluti a tutti e fai girare, vai. Però ti spacca lo smite, Riccardi. Ciao Sergio. Adesso mi senti un po' meglio? Ma puoi alzare anche di volume? No, del microfono, però non lo so, forse. Ma la regolazione è sempre quella, No, no, adesso sta uscendo bene. Lasciamo una parlata in due, no, il livello è buono adesso. Anche il microfono, sempre il tanner è questo. Cioè il 4.5 con le spambe. No, no, questa è una bella radio. Prova se puoi sollevare un pochettino. Sì, adesso sollevo un po', vedi un po'. Ancora di più puoi sollevare? Sì, al massimo. Prova a parlare, ma che distanza sei dal microfono? 50 centimetri. Prova a avvicinarti un pochettino di più. Qua, vedi un po', come mi ricevi. Bellissima, perfetta la radio, molto chiara, niente da dire. Anche chiediamo a Gianni, anche tu Gianni chiedi conferma. Chiarissima, chiarissima, molto bella come radio, è chiara. Non è super amplificata, però quando ti avvicini è molto meglio di quando stai lontano. Capito, va bene, grazie, dai, vuol dire la posizione da mantenere è questa, dai, sono diciamo a un palmo dal microfono. Ok, va bene, mi riprendi Ricky? Va bene, qua stai spaccando lo smitter, però sei incomprensibile, vabbè che siamo attaccati, però vorrei ascoltarti a vedere come stai uscendo. E niente, facciamo riprendere a Roberto e tempo che viene in stazione, boh. Ti sta saturando quando attacca tuo padre, Erika? Bah, non capisco quasi quello che dice, ho capito qualche mezza parola quando faceva il suo commentario, perché qua sta spaccando. Vabbè, siete attaccati, ci avete 30 metri di distanza le antenne, forse neanche. Attenua, ciò ti fascia tutto. Fascia di scempi. Che avanti? Avanti, chi è? Di rientro. Che è avanti? Che è avanti? Oh, pensavo aveva Eugenio, lo ha voce, è possibile? Non lo vedo un po' male. Non è Eugenio. Forse Daniele? Adesso a capriccio, va bene. Ma è forte, più di 9. Chi è avanti sul canale 10? In compagnia di Roberto, Gianni, Riccardino e Sergio. Avanti chi chiama? Dice sono di rientro. Ha chiamato Gianni e sono di rientro. Non ho capito chi sia però. Avanti, fatti riconoscere. Sì, ma chi sei? Se vuoi dire il nome. Sì, ho capito, però come ti chiami? Dì il nome perché non riusciamo a capire. Ah, ciao Stefano, ti rilancio a Gianni. Gianni, Stefano, l'hai sentito? L'amico di Luca, ti ho capito, dai. Io ti ho capito che... Dove stai andando, Stefano? Stai arrivando da fuori? Hai finito oggi? Come io già, non lo conosco neanche. Cazzo, non conosci a Stefano, quello che stiamo facendo il baracchino dentro quella... dentro qualcosa in legno, te lo ricordi? Stefano Tanti, tu sì. Cabezze, ammazzati in varia. Luca, se ammazzati in scenda. Cabezze, come stai? Tutto a posto, niente in ordine. Ma ti sei messo il baracchino di nuovo in camion, stai? Sì, si era piazzato da poco, l'altro giorno l'ha piazzato. E ci conosciamo una vita veramente, da ragazzini, adesso sono molto, non lo vedo, dai. L'ultima volta che l'ho vista, allora, al funerale di Alessandro, se non mi ricordo male, ma qualche anno fa. Ehi, ti ricordi che prima lavorava alla Sisa, adesso sta facendo, sta lavorando un po' tutto, rispetto a una vita un po' tutto. Certo, me lo ricordo, a voglia. Certo, non dico che su di impari quasi, dai, ci conosciamo una vita, Stefano. E ma tanto che ho dovuto far riconoscere io. vabbè, non ne so già, mica la modulazione non si capiva che era lui. Io sì, lo riconosco. Dalla modulazione si riconosce. Io non l'ho riconosciuto subito, la verità, però poi io ho capito chi è. Poi ho un bel oscillante, capito? Non arriva bene. Oh, qua arrivava benissimo, Santiago 9-5. Da me un po' meno. Oh, scusate un attimo. Avanti? Mi aspetto un pochettino, ci sentiamo magari dopo, dai, ciao a tutti, dai, a più tardi. Lasciale perdere queste donne, gare frequenti. Dai, ciao Gianni, ciao Sergio, ciao Luca, ciao Riccardino, e metto gli amici in ascolto, dai, tra un po' rientro, dai. Dai, ho capito tutto, dai, ciao Roberto, buona passeggiata. Ciao Roberto, a più tardi. Ciao Roberto. E a Sergio riprendi. Scusate, ciao Roberto, a più tardi. E io un attimo che sto facendo delle sistemazioni qua in garage, rilancio a Ricchi, dai, grazie. Allora sì, com'è che se te messi tu con l'antenna e Ricchi con l'altro? Tipo un campo da tennis, non ci stiamo giocando a ping pong. Occhio a sbarrarvi gli apparecchi, perché vanno attenuati quando sono così vicino, se no ti partono, secondo quanti vanno a attacchi parto. Infatti preferisco stare più in ascolto, dai. Oh, se vedi ho messo la pipì, adesso ti ascolto perfettamente. Come hai fatto la pipì? Ho messo la pipì, attenuatore di rumori. Boh, non si capisce a volte, gridi troppo. Tu c'hai già la voce squillante, poi con quel microfono se gridi non si capisce nulla. Ho capito, ho fatto la pipì io. Ok, allora non so. Che sto dicendo che Babbo prima lo sentivo troppo forte, infatti era in saturazione. Ho messo la TT, attenuatore di rumori, e così va meglio, lo ascolto perfettamente. Ah, ecco, ho capito adesso, va. Ho capito male io all'inizio, avanti Luca. Ho capito, ho fatto la pipì della TT. E anche io ho capito così. Stefano! Stefano sarà arrivato, doveva entrarci il camion nell'azienda, via lì di uno. Ogni sera lo senti già. Che cosa? Ho detto, se lo senti ogni sera. Ah. E a te, ogni sera lo senti a baracchino. Ma ogni sera, ma due volte l'ho sentito, tre volte. E c'è un numero sulla tua, lo chiamo. Dai, scusate se c'è ancora qualcuno all'ascolto, ritorno subito. Gianni? Qua sono. Hai capito bello bene che sono qua? Sì, sì, ho capito che sei qua, mi stavo prendendo una frutta, via. Ho detto un po' di pasta e basta, non giocare. Oh, io, la verità si dica, mi sono bevuto un po' di ananas. Quello fresco, c'era il ghiaccio dentro. Come si infliggere se è ghiacciato, ma che bastardi, cazzo. Hai visto quella fotografia dove ci sono tutti i cani pronti per essere uccisi in Cina? Ma sapete meglio il nome di mani. Ma un pezzo ne sono, una mattanza a fare. Tieno, che ho detto. Tutti bastardi. Sta contando il tuo audio, aspetta. Hai cucco, un po' di pulita, un po' di pulita, un po' di pulita, un Go, go, go, go. Sì, no?